fusione fredda, come presentata da Fleischmann e Ponder, era un'alternativa possibile e anche, diciamo, un po' utopistica, di poter creare le condizioni del Sole su Terra con mezzi semplici e anche in un certo senso comprensibili dal pubblico. Ora, questa situazione non si è avverata vera. Fleischmann e Ponder hanno venduto la loro idea prima di averla verificata scientificamente. C'è stato giustamente una revisione da parte della comunità scientifica che ha detto che in fondo se questo fenomeno era interessante dal punto di vista scientifico non poteva rappresentare una sorgente pratica di energia. Quindi siamo ritornati sulla linea tradizionale, la linea di una scienza che studia i fenomeni naturali e cerca di riprodurli in maniera più vicina possibile a una realtà, pratica. E questi sono i cosiddetti tokamak, le macchine che servono a creare nel laboratorio le condizioni di temperatura che sono quelle delle stelle. Nella macchina del jet si sono ottenuti 300 milioni di gradi di temperatura. A questa temperatura le reazioni di fusione avvengono nello stesso modo in cui avvengono sul Sole. Quindi ecco che oggi iniettando nella macchina del jet delle particelle non di prova come dell'idrogeno, ma piuttosto un combustibile come una miscela deuterio-tritio, si è trovato quello che la scienza diceva si sarebbe trovata, cioè una produzione di energia. Anzitutto è certo che la fusione è una forma di energia pulita, è una forma di energia illimitata. Le faccio un esempio: i 28 milioni di barili di petrolio che ogni giorno bruciamo, che rappresentano 1 miliardo di tonnellate di anidride carbonica emessa nell'atmosfera ogni anno, potrebbero essere ridotte a una quantità modesta dell'ordine di 200-300 kg di deuterio e all'incirca il doppio di litio, che è un materiale anche estremamente disponibile in natura, che poi è utilizzato per ricreare all'interno del reattore un'altra sostanza che non esiste in natura ma che è un intermediario essenziale, il trizio. Quindi ci troviamo di fronte a un dispositivo che di fatto soddisferebbe quelli che sono i desideri della maggioranza di tutti noi, cioè di vedere un'energia abbondante, democratica, nel senso che non sia dipendente da certe fortune geologiche che fanno certi paesi l'elemento chiave in una politica energetica, e nello stesso tempo che non produrrebbe di per sé dei danni apprezzabili all'ambiente. Non dobbiamo dimenticare che in questo processo entriamo con del litio e del deuterio e usciamo con dell'elio. L'elio è un gas che tra l'altro trae il suo nome dal fatto che è abbondante del Sole, che è un gas totalmente inoffensivo, che verrebbe emesso in quantità relativamente modeste da questo processo. A mio parere non c'è scelta se noi vogliamo arrivare a una soluzione, permanente del problema energetico su Terra. Dobbiamo in qualche modo entrare in un meccanismo di energia nucleare. Però nucleare non vuol dire reattore, non vuol dire Chernobyl, non vuol dire tracce, non vuol dire le scorie radioattive, non vuol dire meltdown e tutte queste cose. Si tratta di trovare un meccanismo che da una parte abbia le caratteristiche proprie dell'energia nucleare, che non dimentichiamo è la sorgente primordiale di energia dell'universo. Tutto il nostro universo marcia energia nucleare, le stelle sono dei grossi meccanismi che funzionano sul livello nucleare, ma bisogna fare queste cose giustamente avendo in mente i problemi fondamentali, che sono quelli della sicurezza e quelli della pulizia. Ora, è vero che il tritio è una sostanza radioattiva, ma ci sono due punti a questo favore. Uno è che il tritio è una sostanza che è debolmente radioattiva, è radioattivo beta, cioè emette elettroni. Questi elettroni hanno un'energia di 20.000 elettron volt massimi, questa è l'energia degli elettroni all'interno di un tubo televisivo, quindi c'è una bella differenza tra questo e certe sostanze altrimenti pericolose come quelle che per esempio Chernobyl ha emesso. Il secondo punto rimane nel meccanismo di produzione dell'energia, è un intermediario, si produce il tritio e si usa subito, e quindi in un certo senso è un meccanismo interno alla macchina, non è qualche cosa che viene diffuso e distribuito e anche trasportato all'esterno, quindi è un'utilizzazione, a mio parere, giudiziosa di quello che può essere la minima involvement, il minimo rischio di carattere nucleare. A mio parere è un rischio perfettamente giustificabile ed è qualche cosa che a mio parere si può trattare e mantenere nei limiti di quello che si può considerare ragionevole. Questo non è corretto, nel senso che anzitutto questo tipo di energia vista nel senso della fusione deve essere fatta, e questa è una condizione essenziale, sia fatta in condizioni e termini semplici che permettano anche ai paesi del terzo mondo di utilizzarli. Quindi bisogna, e difatti questa è una delle condizioni su cui bisogna lavorare, far sì che queste sorgenti di energia di fusione siano sorgenti di energia disponibili anche al terzo mondo, questo mi sembra evidente. D'altra parte mi sembra anche ovvio che un'energia che si può ottenere senza pagare un prezzo che per i paesi del terzo mondo è straordinario, quello del petrolio, che in fondo è diventato un peso assolutamente irragionevole per queste persone, e che in fondo dei componenti come l'acqua e il litio, che sono elementi naturalmente disponibili diciamo in maniera totale, in piccolissime quantità, possono essere un'alimentazione sufficiente di queste macchine, crea una fondamentale democrazia di queste cose, e io credo che in un certo senso saranno giustamente i paesi del terzo mondo quelli che avranno la possibilità quindi di risolvere la loro necessità energetica in maniera giusta. Oggi ci troviamo in una situazione che non possiamo bruciare più di un certo numero di tonnellate di petrolio, e quindi esiste la competizione tra i paesi ricchi e i paesi poveri, chi avrà il diritto di trasformare il clima, chi avrà il diritto di emettere l'anidride carbonica. Stiamo parlando ad esempio di una tassa sull'anidride carbonica, che tra l'altro a mio parere è una tassa del tutto giustificata, perché il prezzo di un barile di petrolio non è soltanto il prezzo di pagarlo, è anche il prezzo che l'ambiente deve poi avere, ricevere, per poter recuperare di questa aggressione che l'emissione di questi gas non tossici ma modificanti dell'atmosfera e delle condizioni di vita sul pianeta. Quindi in un certo senso non c'è via che ci permetta oggi di dare a tutti a tutte le persone di questo pianeta un diritto uguale all'energia. L'energia è un prezzo costoso, i paesi del terzo mondo sono quelli che trovano la maggior difficoltà a pagarlo. Avendo a disposizione un'energia pulita e disponibile in grosse quantità, a mio parere permetterebbe giustamente ai paesi del terzo mondo di avere il diritto alla frazione di energia che li compete. Non c'è dubbio che questo è un grande risultato della scienza europea. Non c'è dubbio che gli europei sono entrati relativamente tardi nel processo della fusione. Vorrei ricordarle che il primo direttore generale del CALAM è stato John Adams, che è stato anche direttore generale del CERN, e che la seconda persona che ha preso in mano CALAM è Mr. Wüster, che di nuovo è un uomo che ha fatto è stato al CERN per molti anni come capo dell'amministrazione. Quindi c'è una connessione diretta tra quello che cerca di fare, che sta facendo il CERN, e quello che sono riusciti a fare oggi a CALAM. Non soltanto un'unità di intenti profondamente europea, ma anche una comunione di uomini e di idee. Quindi penso che il risultato di CALAM è una prova di più della vitalità e della forza dell'Europa. Io penso che oggi l'Europa si può dimostrare essere alla punta dei problemi fondamentali e non solo, ma anche la scienza e la fisica europea non solo pensa a cose complicate e difficili come scoprire il Big Bang, i quark e i leptoni, ma anche ha una responsabilità chiara e netta dimostrata nei fatti di portare avanti un discorso di carattere più pratico, di rispondere a quelle che sono le necessità del mondo, e lo fa a mio parere in maniera eccellente, lo fa in maniera che dimostra che finanzialmente, che fondamentalmente, concettualmente l'Europa è una forza ben più grande che, diciamo, la forza politica e finanziaria che altre superpotenze pretendono di avere o hanno. Quindi in un certo senso io credo che questo risultato, che tra l'altro è un risultato fatto in una fortissima competizione, perché non bisogna dimenticare che anche gli americani, i giapponesi e i sovietici stanno spendendo somme ben più grandi di quelle europee nel campo della fusione. Il fatto che l'europeo sia arrivato a ottenere questi risultati in maniera così chiara e che tra l'altro ha ricevuto l'applauso degli altri scienziati al di fuori del mondo è una prova di più che l'Europa, quando si unisce per fare della scienza, sa fare veramente della scienza vera e della scienza utile.